Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, mercoledì 19 aprile 2023, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, più naturalmente la possibilità di ascoltarci tramite il web, scaricando l'apposita app dal sito radiocittafujiko.it. Ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 all'incirca, due ore di musica dal vivo, musica registrata dal vivo ufficiale e che arriva da tutte le epoche e di ogni genere musicale. La trasmissione si chiama Città Fujiko Live Club e inizia sempre con una novità che oggi riguarda una band che non è molto longeva, infatti è partita nel 2018, anche se i tre componenti sono tutti musicisti professionisti oramai da anni. Matthew Stubb, ad esempio, che è uno dei due chitarristi, perché il trio si compone di batteria e due chitarre senza basso. Matthew Stubb, dicevo, ha suonato a lungo la chitarra nella band di Charlie Musselwhite, bluesman fantastico e di grande fama. La band si chiama GA20, GA detta all'italiano, -20, che è la sigla di un amplificatore della Gibson, un amplificatore per chitarra, direi naturalmente, e la band, il trio, ha preso il nome appunto da questo amplificatore GA20. Hanno fatto un paio di album in studio e un paio di album dal vivo, uno a dire il vero è un mini album, mentre l'ultima loro uscita discografica, che è quella che vi propongo oggi, si chiama Live in Loveland, è un long play, un CD intero. Sulla lunga distanza, come dice il nome, Loveland è stato registrato in questa città che è sito nell'Ohio, in un locale che è la Played Room Records. Il trio è un trio molto molto rozzo, ma nel senso buono del termine, quello che in inglese viene detto rough. Spero che il ministro mi perdoni di tutti questi queste cose in inglese, ma per quel che riguarda la musica prevalentemente rock, l'inglese è la lingua ufficiale, per cui è doveroso usarla. Certo che non si può dire lungo ascolto o disco compatto, si chiama long play o CD. Comunque la registrazione è avvenuta il 9 gennaio del 2020, ma è stata pubblicata solamente nelle scorse settimane. Andiamo ad ascoltarci qualcosa da questa G20 band. Sono 11 brani, di cui buona parte covers, fra cui quella che vi propongo, che è un classico che si chiama My Soul. Loro sono GA20. Why it's my soul, yeah, it's my soul. soul. It's my soul. It's my soul. È un brano di Clifton Chenier, questo My Soul che ci siamo ascoltati dai GA20, uno dei classici della cosiddetta Zydeco Music. Clifton Chenier, anzi era addirittura nominato King of the Zydeco, questa musica che è una commistione di stili, come tante musiche del resto, vede oltre ai soliti blues, rhythm and blues, anche la musica dei creoli, che sono una popolazione della Louisiana a parte, così come sono a parte i nativi americani, appunto sempre della Louisiana. Tutta questa commistione ha dato vita appunto alla Zydeco Music, nel quale lo strumento principale è l'accordion, la fisarmonica in pratica, che ha visto in Clifton Chenier appunto uno dei massimi esponenti di questo strumento. E questo brano, lo ripeto, tratto dalla novità che vi propongo oggi, Live in Loveland dei GA20, mi dà anche l'opportunità di farvi ascoltare nel corso della prima parte della trasmissione una serie di covers che ultimamente sono arrivate nel mondo discografico, nel mondo musicale. E voglio iniziare proprio dallo stesso brano, si chiama, lo ripeto, My Soul. Prima ci siamo ascoltati la versione dei GA20, adesso ci ascolteremo una versione, quella che è più nota almeno a me personalmente, che è quella dei Fish, una grande band amatissima da chi vi sta parlando, attiva che dal 1983 e che diversi anni fa ha pubblicato un cofanetto con 8 CD che comprendeva 3 concerti registrati al Paradiso di Amsterdam, 2 concerti del luglio e un concerto del febbraio 1997, appunto. Questa My Soul che ci andremo ad ascoltare è stata registrata il 17 febbraio del 1997. Loro sono Fish. Un vero e proprio inno, questa Rockin' in the Free World di Neil Young, nell'occasione eseguita dai Cheap Wine, grande band italiana from Pesaro. E non è nuovissima questa versione, anzi questa cosa che ci siamo ascoltati, perché fa parte di un doppio album ottimo, ve lo consiglio caldamente, che si chiama Stay Alive e che vede impegnati Cheap Wine in diversi palchi italiani, fra cui quello del Teatro Zeppilli di Pieve di Cento, quindi vicino qui dalle nostre parti, tutto registrato nell'aprile del 2010. E a proposito di Neil Young, sono usciti venerdì scorso non uno ma due album live, naturalmente, perché è questo che interessa questa trasmissione, e quindi posso tranquillamente annunciarvi che mercoledì prossimo la novità in questione sarà uno dei due di Neil Young, devo ancora decidere quale. Il miglior album dello scorso anno è stato in realtà un cofanetto di 4 CD che racchiudeva il meglio, tratto da 20 concerti che Tom Petty and the Heartbreakers tennero al Fillmore di San Francisco nel 1997. Questo è un album che non esito a consigliare assolutamente, perché è il summa della carriera di Tom Petty. Ci sono tantissime, e degli Heartbreakers naturalmente, ci sono tantissime covers, anche in questo caso di tutti i generi, come più o meno questa trasmissione, però ho scelto una cosa un po' particolare, la riconoscerete sicuramente, è stata registrata il 31 gennaio 1997, è la colonna sonora di un film di 007. Thank you. James Bond in James Bond, siamo passati da Goldfinger a questa Live and Let Die, prima Tom Petty and the Heartbreakers e poi Guns N' Roses. Questo brano è inserito nella ristampa di Use Your Illusion Number One, ristampa che è uscita nel novembre dello scorso anno, che comprende nel secondo dischetto diversi brani registrati live in diverse occasioni. Questa in particolare era registrata a Ritz di New York City il 16 maggio del 1991. Stay where you are. Take a look at yourself. Take a look. won't believe the riches of life. Questo è un brano di Richie Evans, un suo singolo dell'ottobre 1967, si chiama No Opportunity Necessary, No Experience Needed, e fu inserito però dagli Yes nel loro secondo album che si chiama Time in the World qualche tempo dopo. E dopo anni di oblio, gli Yes, o quello che rimane di loro, l'hanno ripristinata nel tour del 2019, tour che nella data di Las Vegas è stata immortalata in un album che si chiama Royal Affair Tour. Devo essere molto molto sincero e mi dispiace, mi sanguina veramente il cuore nel dirvi che lasciate stare questo album, non è assolutamente all'altezza del nome Yes, ce ne sono tanti altri migliori. La cosa più bella è quella che ci siamo ascoltati, No Opportunity Necessary, No Experience Needed. E a proposito di Yes, dei tempi migliori, quelli del 1972, sabato prossimo sarà il Record Store Day, quindi preparate i soldini perché ci sono veramente un sacco di belle uscite, fra cui appunto una Yes del 1972 registrato a Knoxville. Poi vi faccio un piccolo elenco, ma abbiamo i Black Rebel Motorcycle Club, i Jesus Jones, i Midlake, i Pearl Jam, una band favolosa, ve la consiglio caldamente, già il nome è incredibile, si chiamano Pigeons Playing Ping Pong, cioè i piccioni che giocano a ping pong. Poi abbiamo il Romeo Void, di Solo Asylum, Frank Black e anche i Pixies, Missing Persons, 1975 con l'orchestra, Black Keys, Thin Lizzy e tanti altri. Se andate sul sito recordstoreday.com o anche .it, visto che c'è anche la versione italiana, vedrete tutte le uscite che ci saranno sabato prossimo, quasi tutte in vinile, e l'unico problema è che solitamente sono molto molto costose. Ma torniamo alle nostre covers, ve l'ho fatto ascoltare, anzi ve l'ho proposto come novità mercoledì scorso, Black Crowes, nuovo album Shake Your Money Maker live, oltre alla versione integrale del loro primo album ci sono diverse covers, fra cui questa che è molto bella e che è un classico della musica in assoluto. È un brano scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong, si chiama Papa Was a Rolling Stones, a Rolling Stone, anzi singolare, visto che il Bob è singolare. E la prima versione è stata quella degli Undisputed Truth, anche se poi è diventata molto più famosa della versione dei Temptation. Queste invece sono i Black Crowes. Cause that was the day that my daddy died, yeah. I never got a chance to see him. Never learned nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head, she said, ha. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat of a jack of all trades. Tell me that what's that papa doing early grave? Folks that papa would beg, mama steal just to pay his bill. Folks say papa wasn't too much out thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hear that song, she said, son, papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Welcome to Rio, yeah. Yeah. It's amazing. This is amazing. Beautiful. Thank you. This is a song by a very great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great man. By the name of Leonard Cohen. It's called Everybody Knows. Everybody knows. for you. Everybody knows that you'll live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Shore's still picking cotton for your ribbons to furl. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet. There were just so many bitches you had to meet without your crew. Everybody knew. Ha detto tutto Jeanette Napolitano, che è stata la leader di questi Concrete Blondie fra il 1982 e il 2012, anche se in mezzo ci sono state diverse interruzioni, scioglimenti e rifacimenti. Lei è sempre stata però il punto focale. E questo brano, come ha detto lei appunto, Everybody Knows, di Leonard Cohen, è stato registrato originariamente dal grande canadese e nel suo album I'm Your Man, uscito nel febbraio del 1988. Questa invece era la registrazione appunto dei Concrete Blondie, che è stata registrata in Brasile nel 2012 e contenuta in un doppio album che si chiama, guarda caso, Live in Brazil. A concludere la prima parte di Città Fujiko Live Club arriva un'altra cover di quello che è diventato un classico in brevissimo tempo. Infatti è un brano dei Foo Fighters, che Mason Hill eseguono spesso in concerto, e lo eseguirono anche nel settembre del 2021, esattamente il 3 settembre, quando in casa proprio, loro vengono da Glasgow, e proprio a Glasgow registrarono quest'album, che ancora una volta senza tanta originalità si chiama Live in Glasgow. La cover che ci andiamo ad ascoltare è appunto un brano dei Foo Fighters, che era inserito nel doppio album che si chiama In Your Honor, uscito nel giugno del 2005, e si chiama Best of You. Loro sono Mason Hill. Ladies and gentlemen, this is Best of You by Foo Fighters. Well, I've got another confession to make. I'm no fool, and everyone's got the chance to break, holding you where you're born or resist or be abused. Help me out. With someone getting the best, the best, the best, best of you. With someone getting the best, the best, the best, best of you. Are you gone? Your news. You gave me something. going to create a line in the middle. Side A versus side B. Alright? And I want you to repeat after me. Well, Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi 19 aprile 2023, seconda parte che si è aperta naturalmente, oserei dire, con la novità che vi propongo quest'oggi. Questa I Cry For You è il brano di apertura di Live in Loveland, nuovo album per questo trio di Boston che si chiama GA20 e che esegue, ha fatto tantissime cose dal vivo, questa è l'ultima in ordine di tempo ed è abbastanza esplicativa di quel che è la loro musica, come dicevo all'inizio della trasmissione, musica grezza, ma non nel senso deteriore del termine, ma proprio deleterio sarebbe del termine, ma proprio perché è volutamente così low-fi e abbastanza grezza. Comunque ve lo consiglio caldamente, Live in Loveland, GA20. Come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, brani che sono stati inseriti nel corso della giornata odierna, nel passare degli anni, e ancora una volta ve lo dico, scusate se sono abbastanza ripetitivo e tedioso, ma ci sono tantissimi brani registrati il 19 aprile nel corso degli anni e per cui il criterio di scelta è ancora una volta, e quasi sempre sarà così, è un brano per ogni decade. Andiamo subito ad iniziare dal 1973, siamo in compagnia di uno dei tanti album che rispondono al nome di Live at the BBC, l'ente di Stato radiotelevisivo britannico ha sempre avuto un occhio di riguardo per il rock, ha sempre fatto suonare concerti, organizzava addirittura concerti proprio appositamente per trasmetterli durante le trasmissioni radiofoniche e a un certo punto hanno cominciato a prelevare dai loro archivi fior fiore di registrazioni. Questa è una di quelle, è un doppio CD un doppio disco compatto, forse dovrei dire, ma sono all'antica per cui dico CD. E Electric Light Orchestra è il titolare di questo doppio dischetto che racchiude registrazioni effettuate in diverse epoche per appunto la BBC. Questa in particolare è stata registrata il 19 aprile naturalmente 1973 al Paris Cinema, che poi sarebbe diventato Paris Theatre, che era appunto il locale che la BBC affittava appositamente per registrare concerti, e fu trasmesso il 19 maggio dello stesso anno. Electric Light Orchestra era la creazione di Roy Wood, che però lasciò, Roy Wood era uno dei leader, anzi era il leader diciamo di una band degli anni 60 che si chiamava Move. Quando loro si sciolsero, anzi quando Roy Wood sciolse la band insieme ad altri due membri dei Move, fondò questa Electric Light Orchestra. Lui però se ne andò nel 1972, lasciando il testimone nelle mani di Jeff Lynne, testimone che Jeff Lynne ha tuttora nelle proprie mani. E il brano che ci andiamo ad ascoltare, come molte cose che faceva all'inizio la Electric Light Orchestra, arriva dal mondo della musica classica. Infatti è un arrangiamento molto interessante secondo me della Electric Light Orchestra di un brano tratto dall'opera Peter Gynt di Edvard Grieg, compositore norvegese che è vissuto nella fine del 1800. Ce l'andiamo ad ascoltare in The Hall of Mountain King, Electric Light Orchestra, 19 aprile 1973. Thank you. Electric Light Orchestra, si chiama In the Hall of the Mountain King, il pezzo che ci siamo ascoltati, un pezzo, come dicevo prima, tratto dall'opera Peter Gynt di Edvard Grieg, compositore norvegese, che la Electric Light Orchestra, per gli amici ELO, ha suonato, ma anche in tante altre occasioni, questa è quella registrata il 19 aprile del 1973 al Paris Theatre di Londra. Prima ce lo siamo ascoltati per interposta persona, adesso arriva lui in carne ed ossa, anzi purtroppo no, ma comunque Leonard Cohen, di lui che sto parlando, è stato un grande della musica canadese, americana e del globo terracqueo, come dice qualcuno più importante di me, ha avuto una vita molto travagliata, è stato anche in un monastero buddista per diversi anni, cosa di problemi personali, è stato un grande scrittore, un grande autore di canzoni, non un grande cantante onestamente, ma faceva quello che doveva fare, perché si scriveva le canzoni addosso, come di solito fanno poi i grandi cantautori. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Cohen Live, è stato registrato in diverse occasioni, in diverse giornate, in diverse serate, in diverse epoche, questo in particolare al Music Theater di Amsterdam, in Olanda naturalmente. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Heart with No Companion, Leonard Cohen, dal 1988. Now I greet you from the other side of sorrow and despair, with a love so vast and so shattered, it will reach you everywhere. And I sing this for the captain, for the ship has not been dead, for the mother confusion, the cradle still unfilled, for the heart with no companion, for the soul without a king, for the prima ballerina who cannot dance to anything, through the days shame that are coming, through the nights of wild distress, though your promise count for nothing, you must keep it nonetheless. You must keep it for the captain, whose ship has not been built, the mother in confusion, the cradle still unfilled, for the heart with no companion, sorrow and despair. How are their loves so vast and so shattered? It will reach you everywhere. And I sing this for the captain whose ship has not been built, for the mother in confusion, the cradle still unfilled, for the heart with no companion, for the soul without a king, for the prima ballerina who cannot dance to anything. Dal vivo in quel di Amsterdam, Olanda naturalmente, Leonard Cohen, il brano si chiama Heart with No Companion e appare in un album che si chiama Cohen Live, che racchiude registrazioni effettuate in diverse epoche e in diverse occasioni. Questa appunto era il 19 aprile 1988. Suzanne takes you down to a place near the river. Da Amsterdam andiamo a Berlino, in quell'occasione Bruce Springsteen registrò tre brani, anzi ne registrò di più, ma tre brani furono inseriti in un singolo, che è quello che ho tra le mani. I singoli per i più giovani erano dei dischetti che contenevano tre o quattro brani, niente di più, e come in questo caso un brano in studio che si chiama Missing e tre brani registrati dal vivo appunto in Germania. In un teatro che si chiama ICC, non ve lo so dire alla tedesca, e il 19 aprile del 1996. Prima di farvelo ascoltare, una piccola curiosità: se come saprete tutti, fra un mese Bruce Springsteen e la E Street Band saranno a Ferrara. E se arrivate a Ferrara dalla parte modenese mantovana, cioè diciamo Modena, San Giovanni Persiceto, troverete a un certo punto all'ingresso della città in alto un enorme cartellone con il logo del tour di Bruce Springsteen della E Street Band, con scritto Bruce Springsteen vi sta aspettando, e sotto il countdown al giorno del concerto. Oltretutto in Ferrara stanno preparando un sacco di cose, di avvenimenti, di eventi per festeggiare l'arrivo di Bruce Springsteen e della E Street Band, naturalmente non dimentichiamocela mai, e si preannuncia veramente un mesetto molto interessante. Nell'attesa andiamo ad ascoltarci questa registrazione appunto del 19 aprile 1996, uno dei grandi classici di Bruce Springsteen, in questo caso in solitaria, ma una versione un po' particolare, ma riconoscerete sicuramente Born in the USA. Hit the ground, end up like a dog that's been beat too much. Till you spend half your life just covering up. I was born in the USA. I was born in the USA. Yeah. So they put a rifle in my hand, send me off to a foreign land. I go and kill a yellow man. Come back home, mother, if I heard man say son, if it was up to me, I went down to see mom, yeah, man, he said, son, don't you understand now? I had a brother at Kaysan fighting off of Viet Cong. They're still there, he's all gone. He had a woman, he lived in Saigon. I got a picture of him in her arms now. Penitentiary out by the gas fires of the refinery. I'm 10 years burning down the road, nowhere to run, nowhere to go. Wrong. You fool. each other all night long. Until they die. No gal is ain't pretty, but it's always there. And all you folks, when you go, fire beware. To the moon. dopo Berlino, dove eravamo insieme a Bruce Springsteen, siamo rimasti in Germania, siamo andati a Norimberga, esattamente in un locale che si chiama K4 e che ha visto in scena il 19 aprile del 2007 una band che si chiama Danny and Dusty. È una band fittizia, diciamo così, sono due amici, esattamente Dan Stewart dei Green on Red e Steve Wynn dei Dream Syndicate, che quando sono liberi da impegni si trovano e suonano insieme, fanno concerti, hanno fatto due album e questo album dal vivo appunto in Germania che si chiama Live in Norberg, spero di averlo detto bene, e che comprende il brano che ci siamo ascoltati, Down to the Bone. Oltre a loro, sempre della cricca più o meno di quel genere, alle tastiere c'è Chris Cacavas, che è un tastierista che ha suonato con i Green on Red, anche con i Dream Syndicate e con tanti altri, e Steven McCartney alla chitarra, che è chitarrista dei Long Riders. Il tutto appunto registrato il 19 aprile del 2007, Danny and Dusty. L'ultima cosa arriva dal 2018 ed è una cosa un po' particolare, una band particolare, veramente intrigante. Hanno un nome incredibile e assolutamente impronunciabile. Si chiamano Krang Band, se mi consentite. Arrivano da Houston e sono attivi dal 2017, è un trio, basso, chitarra e batteria. E il loro interesse principale è quello della world music, infatti attingono piene mani dalla musica, soprattutto dalla musica dei paesi dell'est. Infatti non a caso il loro nome, Granga Ben, qualcosa del genere, significa aeroplano, significa aereo nel linguaggio Thai, che è la lingua ufficiale in Thailandia. Già questo la dice lunga sul gruppo. Hanno fatto 4 album in studio più questo dal vivo, si chiama Live in Lincoln Hall. La Lincoln Hall è un locale a Chicago che vede in scena costantemente ottime cose e appunto ce ne andiamo ad ascoltare da questo album Live at the Lincoln Hall. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Even Finds the Third Room. Yes. Yes. This is the third row. Please listen. As my menu options have changed. If you'd like to say hello, press 1. Hello, hello. Press 2. Know if I'm alright. Say, you're alright. This is the third room. Yes. Jump in the water. Yes. Veramente molto particolari questi Grunge Band che ci siamo ascoltati in un pezzo che si chiama Ivan Finds the Third Room e che è compreso in questo album live del Lincoln Hall che è stato registrato il 19 aprile del 2018 e conclude Record Today di oggi. A concludere Città Fujiko Live Club invece torna la novità che vi propongo quest'oggi, una band, un trio che viene da Boston, si chiama GA20, l'album uscito qualche settimana fa si chiama Live in Loveland ed è stato registrato appunto in questa giornata nel 2020 in quel di Loveland, Ohio. Prima di lasciarvi a loro, però, vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 all'incirca e che propone musica dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. Prima di concludere vi ricordo anche che sabato prossimo sarà il Record Store Day 2023, tantissime belle cose in giro, in vendita, è vero, andate ad ascoltarvi, a scoprire il tutto su recordstoreday.it o .com come preferite e naturalmente nel .it ci sono anche le uscite di artisti italiani. Vi ringrazio per l'ascolto, vi dicevo vi lascio in compagnia dei GA-20, Live in Loveland si chiama l'album, invece questo brano si chiama semplicemente Let Someone In. Ciao a tutti da Nevio. I'm running out. I wrote this next one about a girl who I thought was really into me, but it turns out she was just...